3, 2, 1, prova, prova, sa. Azione. Signori e signori, benvenuti a Radio Raw. Questa è la seconda puntata ufficiale, dopo averne fatte altre tre in realtà. Però l'altra era una puntata e mezza e l'altra era Radio Raw di notte, però vabbè, non ci sto capendo niente. Comunque, io partirei subito con i ringraziamenti oggi, perché ho effettivamente dei ringraziamenti molto speciali da fare. Allora, il primo è alla pioggia, che viene puntualmente solo il sabato e la domenica, soprattutto quando decidi di andare al Parco Sempione e sdraiarti, e quindi c'è tutto il fango. Il secondo ringraziamento è i due caffè che abbiamo bevuto questa mattina verso le 10:15, sì. 10:15 sì, più o meno, che ci ha tenuti un po' svegli e che ci permette di dire un sacco di cose molto intelligenti. E poi faccio anche un ringraziamento, come potrei dimenticarmi, alla salamella che ho mangiato ieri e alla brioche, alla crema che ho mangiato questa mattina, perché per tutto il tragitto che ho fatto si sono mischiati con i sapori e continuano a venirmi su. Allora, bando alle ciance, no, oddio, non ho ancora queste ciance, no, non le posso... Comunque adesso conosciamo, vi presento una persona che di ciance ne dice veramente tante. Ok? Ci sei provato? Prova a dire sì, ok, è sì, vero? Sì, okay, vero. Vi presento Nicole. Ok, ciao radioascoltatore di Radio Raw, vi saluto e intanto vorrei fare una puntualizzazione perché vedo sugli appunti di Raw che ciance è scritto con la I. No, ciance non si scrive con la I, perché infatti secondo una regola grammaticale ben precisa, quando il CE è preceduto da una consonante, la I non c'è, tipo arance, tu non scrivi arance, giusto? Ma perché, scusami, no, perché camice, camice, che c'è la vocale, si scrive camice. Sì, vabbè, ho capito, mi sono già pentito, Cance. Già pentito di averti chiamato. Comunque, allora, hai anche tu qualche sì, ringraziamento sì, sì, da fare? Sì, vorrei fare qualche ringraziamento prima di tutto al marito fatto in casa, con cui ieri ho fatto ubriacare i miei genitori, e stamattina attenzione, mi hanno... Attenzione, perché lei fa bere i genitori, eh? Attenzione. Mi hanno ripagato con una lauta paghetta che oggi spenderò, penso... in pantaloni, visto che ci sono gli sconti, perché no? Certo. Poi vorrei fare due ringraziamenti speciali alla vecchia lesbica dell'autogrill in Cadorna, che ha tentato un approccio veramente riprovevole. E poi al... Sì, ma lei c'è stato, però non lo dice. Sì. E poi al maniaco sessuale in stazione a Busto, che ancora mi sta aspettando a casa sua, in attesa di una mia visita. Ecco, vorrei dirgli di cominciare ad aspettare e continuare ad aspettare. Perfetto, allora visto che noi ancora non conosciamo Nicole e neanche io a quanto pare, io direi che possiamo partire con l'intervista, quindi con grande gioia di tutti gli ascoltatori di Radio Raw vi posso annunciare l'angolo l'intervista che non esista. Ok, allora, no, aspetta, lo faccio io la musica. Perché, ci sono anch'io. No, ascolta, si chiama Radio Raw, la musica la farò, cioè la faccio io, ok. All'intervista che non esista. Allora, nome. Età? Beh, la mia estetista mi dà 16 anni. Ro, prima, mi ha detto che ho 23 anni. Quindi 16 più 23 fa 39, diviso 2, 18 e mezzo. C'è da dire che quando vado in discoteca e ci provano quarantenni schifosi, proprio vecchi, cioè, io ne ho 14. Okay. Però quando li butta fuori... 20, 21. Ok, proveremo a vedere la sua carta d'identità più tardi, vi farò sapere la realtà. Allora, dici Nicole, qual è la parte più bella di te? Beh, secondo me l'epicondilo del gomito destro. Qui la puntata si fa piccante. E dici, qual è il tuo il tuo tallone di Achille? Beh, oddio, questa. Allora, il mio tallone d'Achille, quello sinistro, penso. Ah, sì. Sì, ok, grazie. Allora, dici, ti facciamo questa domanda, cosa guardi di un uomo? Guardi gli occhi o, non so, guardi il culo? Gli occhi. No, il culo. Ok, okay. Mamma che simpatica. Allora, hobby? Sì, hobby, selfie, qualche orco. No, aspetta, intendevo dire passatempi. Hobby, selfie, qualche orco e ci passo il tempo. Ah, sì, ok. Ci tengo a precisare che sono tutti quelli che sono nella sua testa. No, dunque... no, ma ogni tanto usciamo a mangiare, mi raccontano le barzellette. Ah, sono reali allora? Sì. Gli orchi hanno un alito pesante che non ti dice. Cioè... gli elfi invece? Gli elfi, beh, bisogna stare attenti a toccarli perché... Una cosa che non ho mai capito degli elfi. Allora, loro sono nudi. Sì. Ok, lasciamo stare. Dunque, l'altra domanda qua, entriamo nell'intimo, insomma. Slip o culotte? Filo interdentale. Oh, allora, a questo punto tutto, insomma, ci stiamo tutti chiedendo una cosa fondamentale. No, prego. Era la cameriera. Vuoi fare un saluto, scusa? Vuoi dire ciao? Allora, dopo? Ok, no, era giusto per far vedere che siamo davvero oggi. Alla radio. È una radio, poi siamo online. No, ma non è in diretta. Registriamo e ciao, saluto. Ciao, saluto a tutti. Come ti chiami? Adriele? Ok, perfetto. Ciao. Grazie. Grazie. Questa l'abbiamo pagata a fior di milioni per dire sta cosa. Allora, ci stavamo chiedendo tutti, ma tu sei fidanzata o sei single? Oddio. Il rumore di fondo, scusate, sono i 10 tram che passano ogni 7 secondi. Vai. Beh, se devo essere sincera, io vorrei essere fidanzata, però c'è un ragazzo che mi piace. Sì. E lui dice che una cosa seria non fa per lui, che sono troppo piccola, che non ha tempo. Però siamo usciti settimana scorsa, lui era contento. E poi... Sì, vabbè, poi, insomma, allora siete fidanzati io, o no? Io gli mando i messaggi, lui non mi risponde. Poi mi viene a cercare, dice che è tutto a posto. Ma io... Cioè, io non so cosa fare, in realtà. No, io... Vabbè, ok, abbiamo capito. Sì. Vedo che le idee sono molto chiare, immagino anche lui. Allora, Nicole, questo è un momento importante perché ti stanno ascoltando milioni di persone. Qual è il messaggio che ci vuoi lasciare? Beh, quello che vorrei è... la pace nel mondo? Sì, la pace nel mondo, va bene. Adesso che abbiamo conosciuto Nicole, per tutti voi, insomma, forse era meglio non conoscerla, però vabbè. Sono lieto di annunciare... Sì, è vero, era meglio non conoscerla. Sì, tu stai zitto. Allora, il suo personalissimo angolo. Il suo più o meno si chiama l'angolo di... Già detto. Ok, ci abbiamo messo 2 ore a cercare di inventare un nome. E niente, non è bastato. Non sono bastate 2 teste, però non fa niente. Niente, io a questo punto, Nicole, ti lascio la parola. Grazie, no? Grazie per avermi lasciato la parola. Non penso che sentirà la tua mancanza. L'argomento di cui oggi voglio parlare, cari miei piccoli gorgosprizzi, è un argomento dedicato a tutte le donne in ascolto. Perché, bisogna dirlo, questo piccolo essere di sesso maschile ha monopolizzato questa radio, ha eliminato qualsiasi tipo di rappresentanza alle donne, non può capirle. Questa radio ha bisogno di una quota rosa, diciamo. Ha bisogno di una quota rosa che capisca le donne. Sì, vabbè, spiegate, cambia argomento, eh. Sì. Mi sono già pentito. Care donne, ma anche cari uomini, perché bisogna ricordare che anche gli uomini ne fanno molto uso. L'argomento di oggi sarà dedicato al make-up e make-over, ovvero come truccarsi, come struccarsi. Questi piccoli consigli vi serviranno a mantenere la vostra pelle giovane e luminosa, almeno fino a quando la vostra decadenza fisica sarà irreversibile e allora non ci sarà proprio più niente da fare. Vi potrete andare dal carrozziere, per esempio. Scusa, prego. Ok, vai. Allora, prima di tutto bisogna accertarsi che tipo di pelle sia, una pelle normale, grassa, mista. E che scusa, com'è la pelle mista? Me lo spieghi? La pelle mista è un misto tra la pelle normale e la pelle grassa. Ah, ok. Nel grazie. Senso, la pelle grassa è una pelle oleosa, che rilascia molto sebo. La pelle molto? Sebo. Il sebo è... È quello, la resina delle piante? No, il sebo è un olio naturale che la nostra pelle emette per proteggerla dalle alle intemperie esterne. Okay. Ovviamente le pelle grassi sono quelle che rilasciano molto più sebo e quindi si vede dalla lucentezza oleosa della fronte. Ah, che schifo! Poi ci sono le pelle normali, quelle che hanno un rilascio nella media di sebo, le pelle secche, quelle appunto che sono secche, che hanno appunto sebo e si screpano, e poi le pelli miste, che sono quelle pelli che sono molto grasse sulla zona T, cioè fronte, naso e mento, e normali quindi sul resto del viso. Comunque, niente, va bene, siamo al delirio. Io totale. Direi che Roberto ha una pelle. Lascia stare Roberto, tu vai avanti, vai avanti con questo make up qua. Allora, prima di tutto, la cura della pelle è fondamentale, molto più importante di qualsiasi trucco, perché non c'è trucco che possa nascondere... Senza inganno. Esatto. Scusami. Allora, prima di tutto ci vuole una pulizia del viso ottimale, un'ottima crema idratante apposta per la vostra pelle. In secondo luogo ci vuole un fondotinta per coprire brufoli, le macchiette, le occhiaie. Magari prima fatevi un bel lifting con una crema per quelle brutte rughe attorno agli occhi. Se volevi perdere delle ascoltatrici, sappi che stai andando proprio per la strada giusta. Allora, fondotinta, correttore, cipria, fardo, ombretto, eyeliner, mascara, se vogliamo una matita per le sopracciglia e sei perfetta. Qual è la prima cosa che deve fare? Spiegaci, una donna, per il cellulare che sono, è la diretta questa. La prima cosa che una donna dovrebbe fare per truccarsi, cioè da cosa deve partire? Deve partire prima di tutto da una pelle molto pulita. Ho capito, ma quella mica te la prepari tu e ci nasci, voglio dire. No, ti devi lavare, ti devi detergere con un buon sapone per la tua pelle. Un tonico anche molto leggero, senza alcol perché danneggia la pelle. Poi una crema idratante. Sì. Di solito si usa il fondotinta per rendere uniforme e colorito della pelle. Sì. La cipria è un fissante. Questo argomento è di una gioia estrema, cioè c'è la gente intorno a noi che si sta addormentando praticamente. Vai, sì, ok. Poi non ridere perché sennò non capiscono che sei seria, insomma. Perché lei ci crede a queste cose? Vai. E niente, uscite, vi godete la giornata, lavorate. Trucco. Cosa succede durante il giorno? Se non so. Ma te lo devi dire io che sono un uomo, fammi capire, ma se te. Allora succede questo. Se una su una c'ha il sebo, quella roba lì. Il trucco si squaglia in pratica. E quindi cosa? Bisogna cercare un fondotinta, possibilmente minerale, non unto, che non abbia una base oleosa, per permettere di aderire alla pelle. Oppure in alternativa, ragazzi, non truccatevi, fregatevene, perché se siete brutte, rimarrete brutte anche col fondotinta. Aspetta, la vorrei mettere in un modo un po' più carino. Non truccatevi, ragazze, perché se siete carine, siete carine anche senza trucco. Questa era per il quote rosa, la pari opportunità, insomma, che va avanti. Bene, vogliamo dire qualcos'altro sul trucco? Sì, quando tornate a casa e vi struccate, assicuratevi di aver chiuso porte, finestre, persiane, perché non si sa mai chi potrebbe vedervi. Questa era una battuta, dovete ridere. Ok, poi finito? Sì, per oggi sì. Per oggi sì, ammazza, che rubrica, quant'è che è durata? Insomma, 3-4-5 minuti, dai, perché comunque eravamo a 10 quando è iniziato. Credo che dalla prossima volta in poi avremo molti, molti più ascoltatori. Non so, io direi che... Che dici? Possiamo... Io dico che mi mangerei un panino adesso, visto mangerai che sono panino. Mezzogiorno e mezza. Ce lo mangiamo un panino? Sì. Però prima magari chiudiamo la trasmissione, che dici? Sì. Chiudiamo? E chiudi te. Ringrazio tutti i miei radioascoltatori. I tuoi. nostri, per scusa. Per l'affetto che mi stanno dimostrando, continuando ad ascoltare questa traccia. Vi saluto e alla prossima. Yeah, ha fatto su col pollice, eh? Era un ok, cioè convinta che voi la guardaste, ma stiamo parlando al microfono, attenzione, eh? ha fatto l'ok. Beh, miei piccoli squinternati che non siete altro, vi saluto anche io. Come vedete io porto questo questa serietà, questa trasmissione, quindi ritorniamo tra di noi. Come vi avevo... C'è l'elfo nella testa di Nicole che si sta ribellando. A proposito, volevo chiedere se ancora il regista era incazzato per quella storia. Alla fine io l'ho pagato, ok? Però cosa è successo? In natura, due pere, due mele, un chilo di pane. Va bene, però è successa una cosa, ragazzi, vi devo dare una brutta notizia, aspetta, ammazzo, oh, c'è da dire che Nicole mi aiuta molto, quando ci sono i buchi lei è lì pronta a intervenire. Una bruttissima notizia, ho il cuore a pezzi. E sul regista... Ah sì, il regista ci ha mollati. Eh sì, ci ha proprio lasciati. È dipartito. Ma non in quel senso, no? È morto. Quando è che è morto? Io non lo so. Cioè, io pensavo che... È morto. Beh. Io pensavo che fosse andato via. Mi ha detto, boh, me ne vado a Rimini in vacanza. Beh sì, ma hai sentito dell'uragano? Ah, ma che è morto? Ma vaffanculo che sono ancora vivo. Ok, va bene, ok. Chiudiamo perché è tardi, dobbiamo mangiare. Sì, sì. Ciao ragazzi, ci vediamo, ci sentiamo alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao.